tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, l'appuntamento di oggi prevede la prima conferenza stampa di Montella da allenatore della Roma e due interessanti interviste a Zibi Boniek sul momento difficile delle sue due squadre italiane, cioè della Juventus e della Roma, e a Claudio Gentile sul dramma, invece, ma sul dramma umano, politico, che sta vivendo la sua Libia. Vi ricordo che Claudio Gentile è tripolino e non a caso veniva soprannominato Gheddafi, quando forse quel soprannome ha un significato meno tragico rispetto a quello che invece ha oggi. Ma prima di tutto, il martedì è dedicato al calcio internazionale con Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Senti, Champions League, serata direi interlocutoria, ma fino ad un certo punto. Fino a un certo punto, perché insomma, Lione Real Madrid secondo me merita un passaggio perché insomma, siamo di fronte al vero esordio di José Mourinho nella Coppa dei Campioni con Real Madrid. Ricordiamoci che il primo ottavo di finale con l'Inter non andò bene, ma l'avversario era il Manchester United, e l'anno dopo Mourinho la Champions League l'ha vinta. E soprattutto il Real Madrid ha questo doppio scoglio, uno scoglio che tanto le impedisce di passare agli ottavi da un tempo troppo lungo, e soprattutto gli ultimi due momenti nei quali il Real Madrid ha affrontato il Lione, insomma, il Lione è sempre passato, e soprattutto l'anno scorso diciamo che la sorpresa fu grande perché il Lione riuscì a vincere 1-0 in casa e poi pareggiò 1-1 a Madrid. Direi che un minimo di interesse lo suscita anche la partita di Copenaghen, non tanto per il Copenaghen quanto per il Chelsea, visto che quello che filtra dall'ambiente dei Blues è di una grande tranquillità, però dopo averli visti uscire ai calci di rigore contro l'Everton in FA Cup, dopo aver continuato a vedere il distacco aumentare in campionato, e c'è molta curiosità per vedere l'esordio di Fernando Torres. Insomma, visto in campionato non è un Fernando Torres per il quale si poteva o si doveva far follie. Vediamo stasera come reagisce, e quindi direi che certo, ovviamente rispetto a Inter-Bayern è molto meno, però direi che ci sono temi interessanti in entrambe le partite di stasera. Il clou della settimana è certamente l'Inter-Bayern di domani sera, anche perché è la finale dello scorso anno, dunque porta con sé un sacco di suggestioni, al di là del valore della sfida stessa. Che Bayern stiamo vedendo in questo momento in Bundesliga? Guarda Gigi, io ho guardato con molta attenzione la partita contro il Mainz e devo dirti che ho rivisto un Robben tirato a lucido, e soprattutto la sensazione che mi ha dato Robben è che in maniera veramente diretta anche le prestazioni di Ribéry, quando Robben gioca così, aumentino. Ribéry non è un trascinatore, però mi sembra uno che vada molto a rimorchio di Robben, e quindi quando Robben gioca bene anche Ribéry immediatamente ne trova giovamento. Il Bayern è una squadra abbastanza simile ma non uguale a quella dell'anno scorso, nel senso che ci sono dei capisaldi sicuri, perché ovviamente c'è Lahm, c'è Schweinsteiger, ci sono Ribéry e Robben, però non dimentichiamoci, Ribéry in finale non c'era. La coppia di centrali dell'anno scorso, Demirčević e Van Buijten, la più lenta direi del globo terracqueo, sì. Quest'anno non è migliorata tantissimo in realtà, perché Bacsituber, che giocava laterale, adesso gioca centrale. Timočuk non è un difensore centrale nato, ma è un centrocampista riciclato difensore centrale. Direi che da quelle parti Eto'o può fare molti danni, e ovviamente ce lo auguriamo tutti. Manca Milito, e direi che manca veramente la punta di diamante di quella che fu la serata del 22 di maggio. Diciamo così, molto pericoloso in attacco il Bayern, molto pericoloso in difesa per se stesso il Bayern. Non so onestamente se tutta questa, come dire, allegria che c'è, spensieratezza, chiamiamola così, da parte del gioco di Leonardo possa essere funzionale alla gara nella quale il gol in trasferta pesa di più, perché insomma, se nella fase a gironi vincere una partita 4-3 come fu contro il Tottenham, anche se lì c'era Benitez, dava molta gioia, ora vincere una partita 4-3 è un problema, dovendo poi andare a giocare il ritorno fuori. Quindi grande cautela e grande attenzione soprattutto in difesa per l'Inter. Sì, parlavi della coppia centrale del Bayern, io ho anche visto da voi, insomma, nelle vostre sintesi, due uscite o tre forse a palla a piede di Mertesacker, nell'ultimo turno qualcosa di agghiacciante. Insomma, questo è il difensore centrale della nazionale, non c'entra col Bayern, ma c'entra con la categoria attuale dei difensori tedeschi, no? Che continuano a essere prestanti come, e fisicamente formidabili come erano quelli di un tempo, ma mi sembrano leggermente più vulnerabili. Tra l'altro c'è una curiosità che lega Bayern e Lione, perché tutte e due domenica si giocano una partita scudetto, insomma, lì si chiama diversamente, ma è vero? Sì, perché il Lione gioca con Lille, il Lione è quarto in questo momento, il Bayern è secondo, però a una distanza enorme dal Borussia di Dortmund, cioè, gioca in casa, insomma, la sensazione è che il Bayern di Monaco sia in grado anche di vincerla questa partita. Poi di recuperare tutti quei punti al Borussia Dortmund forse no, un po' più al dura. Punto che lo stesso Van Gaal lo ha detto in conferenza stampa l'altro giorno, ha detto no, forse per il campionato siamo partiti un po' tardi con la rimonta, che poi in realtà non è, sì, è una rimontina, sì. Il Bayern di Monaco è andato sotto anche di 17 punti a un certo punto, quindi un minimo di rimonta l'ha fatta, però bisogna che il Borussia Dortmund cali, perché se non cala il Borussia Dortmund non rimonta nessuno. Senti, oggi c'è anche un Tottenham Blackpool che è un recupero di campionato, e il Tottenham è alle prese con qualche problemino fisico, però insomma lì c'è tempo perché passeranno altre due settimane, sì, prima, 9 marzo. Prima del ritorno del Milan lassù, mentre invece non so, l'ultimo paio di minuti mi piaceva usarlo perché si è visto una volta di più nell'ultimo fine settimana come sia rimasto intatto il fascino della FA Cup in Inghilterra. Guarda Celi, questa immagine meravigliosa del chairman del Leyton Orient, che è una squadra dell'est di Londra, uno stadio da 9.000 persone con il presidente di questa squadra che appunto i suoi ragazzi hanno impattato contro l'Arsenal, va negli spogliatoi e festeggia, ma fa addirittura dei passi da breakdance, cioè sono immagini che abbiamo mandato sia domenica che ieri perché ci piaceva davvero farle vedere a tutti, una festa in realtà molto sobria, nel senso che lui è rimasto con una plomb abbastanza inglese, ma insomma si vedeva che aveva vissuto il suo quarto d'ora di celebrità. In generale l'FA Cup mette, se poi in realtà i grandi club spesso vincono, solo che ci ricordiamo soprattutto le grandi sconfitte oppure i replay, perché poi ovviamente l'Arsenal quella partita la rigiocherà nel suo stadio, uno stadio che è 7-8 volte più grande di quello del Leyton Orient, però a me quello che piace davvero tanto è lo spirito di queste piccole squadre che più che la vittoria, a volte veramente secondo me hanno il retropensiero di tentare il pareggio per andare poi a giocare nei grandi stadi, stadi dove ragionevolmente forse questi giocatori sanno che non giocheranno mai, e quindi secondo me a volte sono più felici di un pareggio perché così vanno al replay a campi invertiti piuttosto che di una vittoria, mi rendo conto che sia un paradosso, però credo che ci sia nella testa dei giocatori una grande felicità anche solo per il fatto di andare a Old Trafford, a Stamford Bridge piuttosto che all'Emirates Stadium a giocarsi un replay da chiari underdog, quindi da chiari sfavoriti, però esibendosi in un palcoscenico che probabilmente la loro carriera non avrebbe mai visto. Grazie Fabio, io credo che per oggi, naturalmente in una settimana di Coppa, reiteriamo gli appuntamenti a domani o dopodomani come abbiamo già fatto la scorsa settimana. Prima di congedarti, in realtà vorrei che ascoltassi anche tu questo messaggio che è arrivato via SMS, così ne approfitto per ricordare il numero, che è il 349-238-6666, lo ripeto perché l'ultimo messaggio arrivato è: non devi lavare per terra e scopare perché l'ho già fatto io, ciao. Quindi è possibile che qualcuno abbia, come dire, sbagliato numero. Grazie Fabio Tavelli. Grazie Gigi, a presto e le notizie dalle strade. Alla faccia della trasmissione in servizio, scrive Simone Raravenna, ma è vero, questo è il vero servizio pubblico. Ripeto, 349-238-6666. Sentiamo le prime parole di Montella da allenatore della Roma. Una grossa fortuna di allenare la Roma, giocatori molto forti che adesso stanno attraversando un momento secondo me psicologico non idoneo, ma questo perché sono giocatori, persone per bene, sono sensibili e stanno soffrendo questa situazione. Credo al contempo che i giocatori migliori debbano giocare nelle loro posizioni dove possano esprimersi al meglio. Poi c'è una fase di possesso, una fase di non possesso palla e quella va fatta. Ma soprattutto per me sarà importante riuscire a trasmettere che tra le due fasi quella più importante è quella di transizione, che vuol dire che bisogna passare prima possibile da una fase all'altra, perché questo fa la differenza. Mi sono preso il mio tempo, qualche ora, ma ho accettato con molta sicurezza, sono sicuro e consapevole a cosa vado incontro. Io ho accettato sapendo che metto a disposizione la mia serietà, il mio impegno, spero la mia competenza, poi il resto non mi interessa. Io non mi sento un traghettatore e vi do il titolo perché il mio obiettivo è da qui alla fine dell'anno, fare bene da qui alla fine dell'anno, poi si sa, chi fa calcio sa che le situazioni cambiano, mutano. Vincenzino, Montella debutterà sulla panchina della Roma domani alle 18.30 a Bologna, quando ci sarà il recupero della partita sospesa per neve. Bologna-Roma lo scorso 30 gennaio. La partita riprenderà dal 16° del primo tempo e a dirigerla sarà lo stesso arbitro di quel giorno, e cioè Banti di Livorno. Insomma, anche a lui farà bene tornare in campo subito, come si dice in questi casi, per cercare di rimuovere gli errori gravi che ha commesso la scorsa domenica. Prima dei due ascoltatori già prenotati da Agrigento e da Potenza, sentirei ancora come Rosella Sensi, attualmente sempre ancora presidente della Roma, ha spiegato la scelta di Montella. Sicuramente sono stati presi al vaglio più di un nome, ma questo perché quando parlo con i miei dirigenti e quindi con gli esperti si fanno sempre delle scelte più opportune. E la scelta di Vincenzo è stata evidentemente pensata per una serie di motivazioni per cui abbiamo ritenuto che fosse lui la persona più adatta in questo momento. Vuole sapere tutte le motivazioni che abbiamo dato? Alcune. Credo la preparazione tecnica, la determinazione, il carattere, il senso di appartenenza, non sicuramente il fatto che fosse un ex compagno dei giocatori. Beh, Montella in ogni caso era in forma dialettica, perché sto vedendo sulle agenzie che la conferenza stampa è proseguita a lungo e a un certo punto qualcuno gli ha chiesto se non si sarebbe sentito a disagio di fronte a tecnici che hanno tanta più esperienza in panchina di lui. Dice: ma sapesse quanto era fatta io di panchina. E evidentemente si riferiva ai tempi, soprattutto quelli di Capello, in cui lui di panchina ne ha fatta davvero tanta e l'ha notevolmente sofferta. Carmelo ha chiamato da Agrigento, buongiorno. Sì, buongiorno dottore, mi scusi, io sono un tifoso interista. Sì. E poco fa sentivo sulle problematiche difensive dell'Inter. Credo che sia un concetto da valutare bene, perché in Italia si vincono i campionati con delle ottime difese. Al momento l'Inter ha, credo, il miglior attacco. Lei un mese fa diceva che l'Inter era vicina a raggiungere il Milan in classifica. Sempre convinto di questa idea, oppure con questa difesa che c'è l'Inter che prende un po' troppi gol potrebbe essere soltanto un discorso limitato a un secondo o un terzo posto? Grazie. Ma insomma, secondo, terzo, primo, intanto l'Inter è rientrata, no, in questo gruppo, e già questo non molto tempo fa non sembrava molto, molto plausibile. Rientrata, e secondo me ci sta fin verso la fine. Io ho questa sensazione. Poi queste valutazioni possono cambiare anche in dipendenza del diverso cammino in Coppa, cioè di quanto andrà avanti il Milan, di quanto andrà avanti l'Inter, cioè di quale sarà l'usura supplementare rispetto al cammino in campionato. Però io continuo a pensare che da qui al derby del 4 aprile, che sarà probabilmente decisivo, e se non decisivo al 100%, certamente in una buona percentuale, da qui ad allora ci sia un cammino del Milan molto impegnativo rispetto a quello dell'Inter, perché il Milan per esempio deve giocare a Torino sul campo della Juventus e a Palermo, non mi sembra due trasferte facilissime, quindi è possibile che è probabile a parer mio che il gap da qui ad allora si possa ridurre ulteriormente, per quel che valgono questi discorsi. Certamente l'Inter ha il primo attacco del campionato, di un campionato molto mediocre, questo sarà sempre bene, è sempre meglio ripassarcelo tra di noi, però anche la nona difesa, e quindi è lì un po' il problema, no? Perché visto che Samuel non può recuperare, e Samuel era il perno di quel reparto, beh, insomma, la nona difesa su 20 non è particolarmente lusinghiero, ecco, per una squadra che lotta per il titolo. Gaspare invece ha chiamato la Potenza, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, volevo fare delle puntualizzazioni riguardo al fatto alla partita, diciamo, di domenica scorsa del Milan. Da premettere sono juventino, però la Juve di domenica non c'entra niente. Riguardo al fatto della prova televisiva, mentre a Krasic sono state date 3 giornate di squalifica per la prova televisiva, a Rubinho che più o meno può sembrare o non può sembrare lo stesso fallo, che lui ha, diciamo, ha usufruito di una irregolarità facendo un fallo di mano e segnando il gol. Poi diciamo è questo quello che è. Poi la stessa cosa che mi dà fastidio, il comportamento di Rubinho quando al suo marcatore Cesar, se non vado errato, ha subito lo stesso come deve dire pallone con le mani, è stato fatto la doppia ammonizione. Sì, no, ma che Robinho domenica abbia peccato di buon gusto non c'è nessun dubbio. Dopo quella furbata, la differenza tra la simulazione di Krasic e l'aiutino che Rubinho si è dato, da un punto di vista disciplinare, di prova televisiva, mi perdoni, ma se non l'afferra lei, io non gliela so spiegare, nel senso che è talmente la palissiana che è inutile che credo, no? che perdiamo del tempo e del fiato su questo. Insomma, io credo, se fa un piccolo, insomma, se ci pensa un attimo, io sono convinto che ci arriva. E magari evita obnubilamenti da tifo, magari ci arriva da solo, ecco, io perlomeno me l'auguro. Cosa ne pensa dello sfogo del presidente del Cesena? Domanda Gabriele a Bologna. Ne penso tutto il bene possibile. Molti ascoltatori sono intervenuti stamane su questo, mandando mail e incoraggiando. Non so, Giulio Torelli scrive: se Campedelli, presidente del Cesena, sarà coerente di fronte a proteste incivili dei propri ultra, davvero si ritirerà dal mondo del calcio e gli saremo grati per aver aperto un fronte nuovo, quello di società non più ricattabili da gentaglie che usa il calcio come pretesto per violenze i vandalismi, e speriamo che tanti altri dirigenti prendano esempio. Questo è soltanto uno dei tanti che hanno scritto, che sono intervenuti su questo argomento. Campedelli si è limite, Campedelli Ramo Cesena, perché sapete che sono due omonimi che presiedono Chievo e Cesena. Il Campedelli romagnolo si è limitato a ricordare, di fronte a non tanto a contestazioni da stadio, perché quelle finché rimangono in ambiti civili, fino a che non tracimano, sono ammissibilissime, magari non molto spiegabili visto che stiamo parlando del Cesena e non del Real Madrid, ma insomma comunque accettabili. Ma quando l'azienda del presidente viene presa di mira con minacce alle impiegate o alle commesse, come si è letto in questi giorni, soltanto perché il Cesena non sta dominando il campionato, è anche giusto, direi che è doveroso che il presidente mette i puntini sugli i e dica: ho preso il Cesena da una categoria inferiore, al ripetersi di un episodio di questo genere consegno le chiavi della sede al sindaco, ritiro tutto quello che ho fatto sino ad ora e vorrà dire che Cesena ripartirà dai dilettanti, come questa gentaglia certamente meriterebbe. Franco ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno, io volevo parlare della Roma, sono un tifoso della Roma. Sono andato allo stadio per tanti anni e volevo fare una serie di osservazioni che poi lei trasformerà in domande e mi risponderà con una sua opinione. C'è anche una nota polemica in questo che dirò, ed è questo: volevo parlare di questo fatto che Montella, che è un mito della Roma come calciatore, adesso si troverà ad affrontare una situazione difficile come allenatore. E mi dispiace dovesse fallire in questa impresa, perché si rovinerebbe un'immagine fantastica che lui ha come giocatore della Roma, come fu per Bruno Conti quando dovette traghettare anche lui la Roma e rischiò di retrocedere perché un signore si fece espellere a 5 giornate dalla fine, e poi ci salvò Cassano a Bergamo con un gol, vincemmo 1-0. Allora, la questione è questa: io sono un tifoso della Roma, ma ho smesso di andare allo stadio perché c'era... E da lì eravamo partiti un minuto fa. Tenga conto che tra 30 secondi dobbiamo dare la linea ai mercati. Sono un antitotti definirla proprio in modo veloce, perché ritengo che in tutti questi anni non ha mai fatto nulla di buono per la Roma, non ha mai fatto gol decisivi, non ci ha mai fatto vincere nulla. Piuttosto abbiamo fatto un record di vittorie consecutivo senza di lui, abbiamo recuperato all'Inter 13 punti l'anno scorso, poi è tornato lui e l'abbiamo perso il campionato, abbiamo perso un campionato una volta che pareggiamo con l'Ancona 0-0, quell'Ancona era retrocesso da 5 giornate, e quest'anno pure ce lo stavamo giocando, torna lui col Brescia e si innesca una sorta di depressione nella squadra, e poi alla fine questo campionato non è più giocabile. Franco, io domenica scorsa, io non contesto mai le teorie altrui quando sono così nette e radicate, perché perché sennò appunto andremo avanti giorni e invece è ora di dare la linea ai mercati, anzi sarebbe già stata ora prima. Ricordo che c'era sempre, anche ai tempi di Rivera al Milan, c'era sempre, no, tra i diciamo su 100 spettatori, i 60 che lo adoravano, i 30 che lo ritenevano un grandissimo, i 7-8 più o meno agnostici, cioè c'era sempre quello, no, che per far colpo al bar diceva che Rivera era la disgrazia del Milan. Ecco, il suo intervento mi ha fatto un po' lo stesso effetto. Ancora l'ultimo riscontro di domenica scorsa a Genova, dopo un periodo oggettivamente difficile, è che Totti è stato l'unico, di gran lunga il migliore in campo della Roma. Poi a un certo punto, quando ha cominciato l'allenatore a fare cambi inauditi e dietro a cominciare a frenare la difesa, diventa difficile per lui andare a fare anche, che ne so, il libero. Comunque tutte le opinioni hanno diritto di cittadinanza, anche quelle, soprattutto perché non sono opinioni ma sono numeri, che arrivano dai mercati. E sto vedendo su Sky Sport 24 l'immagine del primo allenamento di Montella, che sta destreggiandosi, sta facendo il torello con i suoi ex compagni di squadra, perché poi in larga maggioranza lo sono, e insomma sta cercando, io credo, soprattutto di ricreare un'atmosfera. Credo che quello sia il suo compito principale di queste ore. Molto bello questo messaggio di Paolo da Milano, che dice: guardare il Barcellona è come andare al cinema e vedere un film con Mastroianni, Tognazzi, Manfredi, Gasman, De Niro, Hoffman, Al Pacino, eccetera eccetera. È proprio così, Paolo, lei ha ragione. Mentre invece continua a spopolare il messaggio di prima, quello arrivato per sbaglio al 349-238-6666, che diceva: non devi lavare per terra e scopare perché l'ho già fatto io, ciao. E Raffaele da Como sostiene che questo messaggio l'ha mandato Ranieri a Montella, per esempio, ma poi ci sono tante altre varie interpretazioni sul tema. Adesso ascoltiamo la prima parte di un'intervista che Dario Ceccarelli ha realizzato stamane per il giornale radio di Radio 24 a Zbigniew Boniek sulla difficoltà di questo momento che accomuna sia la Roma che la Juventus, che sono per l'appunto le due squadre in cui Boniek ha militato in Italia. Sentiamo la prima parte. Il problema più grande della Juventus sta nella testa, ma quando si dice un giocatore da Juve tutti non riescono a immaginare che cosa vuoi dire a questa parola. Invece nella Juventus sono tensioni diverse, non bisogna fare un gol o vincere una partita, fare una doppietta e essere felice. Nella Juventus bisogna remare, essere concentrati, caricati per tutta la stagione, perché la vittoria non fa la notizia fanno le sconfitte. C'è un altro modo di pensare, c'è un altro modo di mentalità, e mi sembra soprattutto questo manca con la squadra. Tolto De Piero, tolto Buffon, direi tutti gli altri non sono ancora all'altezza di captare e di capire che cosa vuol dire giocare da Juve. Per quanto riguarda la Roma, tutti aspettano ingresso di nuovi proprietari, e anche in questo punto la Roma può sperare di far bene. Montella è uno che ha rapporti, diciamo, cordiali, di amicizia quasi con tutti i giocatori con cui ha giocato. Se è scelta giusta o sbagliata la vediamo prossimamente. Io ritengo che questo è sicuramente un salto in buio. La Roma questo anno ha fatto una grande scommessa su Adriana, mi sembra che non è che la sta vincendo. Direi di no, un fiume in piena, proprio andava fermato Zivi, perché quando si lancia e si scatena un signor intenditore di pallone è un campione come è stato lui, insomma qualcosina da dire di autorevole ce l'ha. Ma perché Zibi non allena più? Domanda in tempo reale Max da Udine. Beh, ha fatto due esperienze infelici in gioventù. Ha avuto troppa fretta di diventare allenatore, è una storia che ricordo bene, e ha fatto due esperienze infelici e alla terza ha deciso che tanto voleva chiudere con quello sbocco professionale. Peccato, probabilmente, ma il fatto che non abbia fatto quella carriera non significa che di calcio non ne mastichi e come. Sentiamo la seconda parte di questa intervista che riguarda più da vicino, mi pare di aver capito, la Juventus, sempre Dario Ceccarelli. Molto difficile paragonare, l'unica cosa che io non accetterei da calcio di odio è turnover, che mi sembra una delle più grandi bufale che ho mai visto, mai sentito. Se io ero professionista, sono oggi un professionista forte e prendo milioni e milioni di euro, nessuno c'ha diritto di dirmi che io dopo due partite, la terza devo riposare perché sono stanca, anche perché se io sono stanco facendo professionista a 20-30 anni, a 40 che cavolo faccio? Io ho giocato con Michel che era uno dei giocatori più forti, però i forti erano tutti, direi che questa è una squadra equilibrata, molto forte, ma soprattutto una squadra molto forte e matura nella testa. Basta pensare che questa Juventus 82-85, che cosa hanno fatto tutti i giocatori quando hanno smesso di giocare, chi fa imprenditore, chi fa presidente di UEFA, chi fa allenatore, chi fa altre cose. Questa dimostrazione che all'epoca questa squadra era fatta dei giocatori che c'erano la testa sulle spalle, sapevano come bisogna pensare, come bisogna giocare, come bisogna sacrificarsi, e i risultati sono venuti. È sempre stata strepitosa la dialettica di Boniek. Io ricordo anche i tempi in cui venne in Italia, perché il polacco arrivò in Italia alla fine dell'82, nell'autunno, insomma, nel fine estate 82, dopo il mondiale di Spagna, e nel giro di un anno parlava, ma forse meno, parlava fluentemente l'italiano, ma anche con una buona proprietà di linguaggio, quindi figuratevi quasi 30 anni dopo. Io ricordo che una volta in un dopo partito in uno spogliatoio della Juventus c'erano lui e Platini vicini, e noi facevamo crocchio per raccogliere, come usava allora, non c'erano le sale stampa, per raccogliere direttamente lì dalle panche le loro opinioni, quello che avevano da dire. E Platini, che l'italiano lo parlava bene anche perché aveva parenti italiani, disse qualcosa a Caricola, che era vicino a lui. Caricola era un difensore che veniva da Bari e che poi ha fatto fortuna, tra l'altro, anche extra calcio. E insomma, morale conclusa, gli disse: senti Caricola, è meglio che, se vuoi farti capire in italiano, tu vada a lezione lì da Zibi, perché sarebbe stato in grado già allora di dargli ripetizione in lingua, intendo dire nella nostra. Luca, chiamato da Cesena, buongiorno. Buongiorno Granzini, le faccio perdere pochissimi secondi a proposito di quello che diceva prima della conferenza stampa del Presidente, che è partito dal principio giusto, perché certi episodi vanno condannati senza se e senza ma, e poi è andato a finire nella direzione diametralmente opposta, con una reazione non sproporzionata. Di più, Cesena lo sanno tutti che è una società, è una città civile, e lo rimarrà sempre. Io leggo oggi sulle testate nazionali Igor Campedelli inferocito contro gli ultra e minacci di lasciare se le violenze dei giorni scorsi dovessero continuare. Cioè, è venuto fuori un quadro, sembra di essere a Beirut, con quattro stupidi che esisteranno sempre esisteranno sempre, che vanno trattati da tali, ma non dire a una tifoseria intera, 11.000 abbonati che ti hanno dato fiducia, se non finisce queste violenze, ripeto, violenze, quattro stupidi che vanno in un negozio a dire quattro stupidaggini, mollo tutto e me ne vado via. E mi stupisco di lei, e chiudo, che pensa che una città come Cesena, che ha fatto soprattutto della Serie A e della Serie B, scusi, della Serie C, possa pensare di contestare una squadra perché non vince il campionato. Cesena non contesta perché non si vince il campionato. La saluto. No, ma io accetto le sue rimostranze, ci mancherebbe altro, ma credo che sia tempo invece di prendere le difese, di schierarsi dalla parte dei Campedelli e non da quelli che ridimensionano con i quattro stupidi, perché sono sempre quattro stupidi. O sono quattro stupidi che vanno a minacciare il negozio, o sono 100 imbecilli che allo stadio fanno i bu contro i neri, o è sempre tutto troppo ridimensionato da noi. E se invece cominciassimo a chiamare le cose con il loro nome, probabilmente, e soprattutto ad assumere posizioni dure, io credo che il calcio non potrebbe che migliorare. Così com'è fa tra pena e schifo, direi, no? Questo credo che sia ormai una valutazione abbastanza condivisa. Quindi, dato che non può che migliorare, bisogna però che migliorino gli atteggiamenti. Uno dei più sbagliati è quello di metterla sordina, o di ridimensionare, o di menarsela con le città civili. Nessuno ha mai detto che Cesena è una città civile, ci mancherebbe altro. Ma se a Cesena hanno perso il senso delle proporzioni e pensano che il terzultimo, il quartultimo posto è una lotta seria per restare in A, dopo esserci arrivati contro ogni previsione, sia un risultato negativo che autorizza contestazioni, beh, insomma, secondo me vuol dire che le proporzioni sono abbastanza smarrite. Lorenzo da Lucca, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini, io chiamo da Lucca, ma sono cesenate, si vede che oggi è il giorno dei cesenati. Concordo con lei su tutto quello che ha detto riguardo il Cesena, ma volevo parlare di altre cose, perché sì, L'argomento è già stato toccato. una sua opinione, come un allenatore come Galeone non riesce a trovare ingaggi? E poi una curiosità, avrei voluto tanto vedere la sua faccia quando si era accorto che aveva chiamato il presidente della l'ex presidente della Triestina Tonellotto. Avrei veramente voluto pagare. Grazie la scusa. Lorenzo, beh, penso che il secondo, adesso, non dico un grande investimento, ma quando ho capito che era davvero il professor Tonellotto, mi creda, avrei voluto avere semplicemente più memoria, perché poi oppure avere qui in studio a portata di mano il cassetto con i ritagli che ho invece 12 metri più in là alla scrivania, perché ma un giorno o l'altro lei adesso mi ha fatto tornare alla mente Tonellotto, che avevo fortunatamente rimosso, ma fortunatamente o sfortunatamente, perché in effetti un quarto d'ora di divertimento un giorno o l'altro lo potremo anche passare. Tonellotto è andata così, non mi ricordo già più l'altra cosa che mi ha detto, perché la memoria per l'appunto è quella, però sul mi fa piacere che siamo d'accordo sul Cesena, ma non sul Cesena come Cesena, ma in generale sul fatto di prenderle, cioè di non usare scorciatoie, di non fare sconti, di dare importanza seria a queste cose. Quanto a mio amico Galeone, beh, insomma, il 24 o 25 gennaio, non ricordo, il 25 direi, ha anche compiuto 70 anni, quindi insomma, non è facile oggi affidare una squadra ad un uomo che insomma i suoi anni bene o male li ha. Poi Galeone è ancora particolarmente lucido, brillante, e rimane un grande intenditore, e per esempio nel caso di un'avventura breve e di un'operazione di risanamento come sarebbe dovuta fare la Roma, beh, forse tra il giovanissimo Montella e il vecchio Galeone io forse avrei scelto la seconda strada e autostrada. Torniamo con un'altra intervista. Questo è un frammento di un'intervista che Dario Ricci ha realizzato per il GR di Radio 24 e che andrà in onda integralmente poi domenica a bordo campo alle 14.30. Gentile non parla tanto di calcio in questo caso quanto della Libia. Gentile è nato a Tripoli e quindi sta vivendo ancora più di quanto non succede a noi delle ore di grande tensione e di grandi dubbi sul futuro per quello che riguarda quanto sta accadendo laggiù. Mio padre andò giù che non aveva neanche un anno, con i propri genitori, sa, c'era in quel momento la Libia era diciamo una nazione dove era quasi italiana, e invece mia madre è nata addirittura lì, come sono nato anch'io, quindi diciamo che la Libia è un po' la nostra seconda patria, siamo molto interessati a queste cose che stanno succedendo. Io sono venuto via che avevo 8 anni, però i miei genitori ci sono stati per 30 anni e quindi conoscono anche delle persone che sono ancora lì a Tripoli, quindi c'è diciamo per loro un interessamento diverso dal mio. Noi siamo venuti via nel 61, quindi prima del colpo di Stato di Gheddafi. Mio padre cominciò a intuire qualcosa, che gli italiani non erano più diciamo rispettati come lo erano stati negli anni precedenti. Tanto è vero che poi dopo 9 anni ci fu il colpo di Stato, gli italiani vennero mandati via con le valigie senza nessuna possibilità di poter monetizzare quello che avevano costruito giù in Libia. Non mi è stata mai data l'opportunità di ritornare. Io ho chiesto un paio di volte di poter andare giù e vedere, me l'hanno sempre negata. Non capisco perché. Sarei fiero di allenare la nazionale libica, però logicamente con delle condizioni diverse da quelle che ci sono adesso. Ci deve essere proprio una libertà di scelta, di possibilità anche di lavorare senza avere interferenze come ci sono state fino adesso. Beh, anche se è molto interessante questa conversazione con Claudio Gentile, anche se adesso, prima ancora di scegliere, credo che ci siano delle altre priorità, cioè ci siano altre scelte in questo momento che si spera che il popolo libico possa fare, no? Direi un po' più importante. Oggi il display riserva sorprese e curiosità ininterrotte. Corrado scrive: mi piacerebbe avere notizie di Sandro Salvatore, un grande della Juve degli anni 60. Corrado, glielo dico con tutte le cautele del caso, ma Salvatore è morto qualche anno fa ed è stato davvero un grande della Juve, del Milan prima, perché Salvatore veniva dal Milan, e così come Mora, il parmigiano Mora, anche lui morto molto ma molto prima, era un grande, invece cresciuto là, e poi ci fu questo scambio per cui Salvatore prese la strada della Juventus e Bruno Mora la strada del Milan, due grandi giocatori di quel tempo. Giuseppe ha chiamato dalla provincia di Macerata, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Prima volevo farle complimenti per la pacatezza con cui si rapporta. Mm. E poi volevo dirle, a prescindere dal mio punto di vista, che il Milan e l'Inter non si possono più guardare in televisione per l'atteggiamento che gli arbitri hanno, sembra che lesa maestà ogni volta che debbano fischiare qualcosa. E poi, non vorrei ricordare male, ma alcuni anni fa un italiano fece gol di mano e tutta la stampa italiana a stigmatizzare questo fatto. Per quale motivo esultato, per quale motivo esultato si doveva vergognare. E Robinho? Robinho non ha fatto proprio gol con la mano. Robinho si è aggiustato il pallone come capita più o meno a tutti. È un gesto istintivo che si fa, ed è un gesto la cui responsabilità ricade direttamente sull'arbitro, che lo deve valutare. Sa qual è la cosa inquietante che nessuno ha ancora colto? Mi pare di aver, pur sfogliando giornali e sentendone tante, che Banti purtroppo è lo stesso arbitro che ha diretto Milan-Palermo quest'anno, in cui c'erano stati due colpi di mano veramente inquietanti di milanisti, uno di Ambrosini nell'area avversaria nell'azione a rigore, uno di Boateng nella sua area per opporsi in barriera a una punizione, direi proprio di Miccoli. Diciamo allora che è recidivo Banti con i colpi di braccio, i colpi di mano di una certa squadra, e questo dovrebbe fare riflettere il designatore da qui alla fine del campionato, a parer mio, ma riflettere molto ma molto seriamente. Io invece devo semplicemente fare un ripasso di priorità e ricordare che sono in leggero ritardo per dare spazio alla rubrica di Nicola Filippone per scoprire che cosa ha trovato per il giorno 22 febbraio. Sembra ieri. 22 febbraio 1981. A San Siro l'Inter di Bersellini soffre contro il Como di Marchioro, ma lo batte 2-1 grazie a un gol di Proasca a 9 minuti dal termine. Durante il primo tempo Bersellini è costretto a sostituire Oriali, infortunato. Sceglie di mandare in campo un debuttante, un ragazzo di 17 anni e 2 mesi, Beppe Bergomi, che aveva giocato in prima squadra solo una gara di Coppa Italia l'anno precedente. Nessuno aveva esordito così giovane nella massima serie con la maglia dell'Inter. Il ragazzo però se la cava bene e da quel momento non uscirà più dal giro. Inizia così un percorso che durerà fino al 1999, un'esperienza la cui straordinarietà è sintetizzata efficacemente da numeri impressionanti. Sono 758 le partite di Bergomi in nerazzurro, di cui 519 in campionato. Mamma mia, una storia cominciata addirittura 30 anni fa all'età di 17 anni e 2 mesi e insomma meno di un anno e mezzo prima di un esordio altrettanto improvviso al Mondiale di Spagna 82. Beppe Bergomi sarà con noi dopodomani per commentare il dopo Inter-Bayern di Monaco. Adesso sentiamo ancora Daniele, ha chiamato da Bologna, buongiorno. Buongiorno, salve Garanzini, sono un tifoso del Lecce, però vivo qui a Bologna da 10 anni. Niente, volevo chiedere da lei, che è un intenditore di calcio, il Lecce Decanio cosa farà quest'anno secondo lei, se il progetto è un progetto buono, e come prima domanda. Come seconda volevo lanciare una freccia, nel senso che basta parlare di arbitri, mani, non mani, bisogna giocare, è uno sport, si vince e si perde, alla fine dell'anno si fanno i risultati. Bisogna prendere lo sport per quello che è, punto, non vuol dire nient'altro. Bisognerebbe prendere lo sport per quello che è. Beh, il Lecce sta facendo forse più di quello che era prevedibile fino a non molto tempo fa. Si vede che c'era bisogno di un po' più di lavoro in profondità, ma certamente tra le squadre che stanno lottando per salvarsi mi sembra quella che sta meglio, che ha più convinzione e forse che ha anche più risorse di convinzione, ma anche di velocità, si è visto domenica, di insomma di sono sensazioni, quindi sono difficili da raccontare e da trasmettere, però mi sembra che ci siano le giornate in cui dà l'impressione di poter vincere la partita, e dato che ci si salva ormai vincendone qualcuno ogni tanto e facendo 3 punti ogni tanto e non pareggiandone magari un numero anche superiore, quindi non perdendole, in Lecce secondo me ce la può seriamente fare. Grazie a tutti gli intervenuti, a Fabio Cantadori in regia, a Franco Piantanida in redazione, e buon pomeriggio.